pubblico, a me piace ascoltare tutto lì. Ok, rilasciamo a Mauro, avanti. Ci sono, sì. Bello, bene, gli strumenti sono una cosa molto bella, la musica è bellissima. Gabba, ringrazio a te, puoi poi tirare nel gigino, vai. Ok, ripeto io, la musica è tutto, è bello, quando la cosa piace è bello anche lo sport, qualsiasi cosa, io. La musica è perché forse ce l'abbiamo nel sangue, però lui ha approfondito perché ha fatto il conservatorio. Non lo pensavo fare, non mi potevo muovere oltre perché ci sono dei testi da studiare e se vi faccio vedere cosa tutto ha studiato mio figlio, si buttate via gli strumenti e anche se non porta ancora la capelle, è tutta una roba che deve nascere perché e c'è sempre da imparare, non è che uno sai, c'è sempre ancora da imparare, io sono curi, però anche quando uno suona, capito, fa gli inizi, che suona male, a me mi fa piacere lo stesso, perché la musica è sempre bene, è il dono di Dio, riprenditi. E se mi avete lanciato dentro in galleria e non mi potevo sentire. Io già ti ho sentito lo stesso però. Vabbè, c'era Luca, sparito e Mauro e gli altri. Io rilascio a Luca, che Luca mi arriva a Foto Scala. Luca, ci sei? Sì, no, mi stavo facendo una cosettina qua in casa, ti ho sentito che mi ha rilanciato. Sicuramente Mauro è andato a mangiare, Non lo so. Io stavo controllando poi l'apparecchio perché come l'alimentava sempre a 110, c'aveva anche l'alimentazione a 110 questo Midiran, però sentivo già la domenica una puzza di componenti, però niente, stasera stavo modulando un po' più che il moro ed è poi di un attimo il baracchino si spegneva e si accendeva, l'ho aperto, c'era il trasformatore che era molto caldo, però le tensioni degli autotrasformatori erano perfette, non so. Adesso lo hai alimentato a 12 e sta andando tranquillamente, va bene, non vuol dire che non c'è nulla di tanto lì, da settimana entrante arriva la linea, tutte quante le cose, questi li metto dalla parte, riprendi di nuovo. Ecco, ma ti ha preso la linea a te, Wood? No, il mio gringo lo stavo guardando, affascinato dalla Icon, a me piacciono le vecchie cose, ho visto un 728 e un'apparecchiatura poi di 144, 290 della Icon, che sono stato sempre affascinato perché ho tutti i vecchi cataloghi della Marcucci e me la sono comprata, me la sono, hai capito, e niente, rumore giusto per avere, a me mi piacciono le cose vecchie. Però c'è un Icon, c'è un 207 di Limano, dai. Una brava di radiolina, piccola ma sincera, guarda che bello. Sono entrato a forza a tutti. Ciao, bra. Andare avanti Gianni, ripeti tu. Ok, ciao Claudio, buonasera, capito da questa parte, adesso io ti farò un'interrogazione. Conosci il 728 della Icobra? Conosco perché l'ho avuto, ma non pensare di aver fatto un affare in AM perché non va in AM. Gli apparati che vanno in AM sono quelli della Kenwood, quello va benissimo in onda laterale. Lo conosco. C'ha 3 pomilli a sinistra, il centrale, poi una a destra. C'ha la Santi sotto del... ce lo conosco. La ONM non è una radio che va bene. No, quello lo so, che ha più dotato per le bande, però diciamo che la 27 la... c'era la 27, confermi? 100 volte mando la terra, ma ti ripeto, non pensare di avere questa grande radio, perché non è molto affidabile in AM, ma tutte le radio ICOM sono affidabili in AM. No, io siccome mi ero sempre affascinato di quel apparato, e con tutti gli impianti della Marcucci, capito, questo così mi interessa. E poi ho preso anche un 144 e 290 T, lo conosci? E si è andato a prendere, io ho avuto 290S, già si è andato a prendere, no va così vecchia, no. Sono apparati di vecchia data, vanno bene, ma sto iniziando un po' a mollare le vecchie cose e andare su quelle nuove. Io ho ordinato il 7600 della ICOM, il 7600, che è un quadribanda, però è... Non sono miei cugini, perché dici che sei mio cugino, non ti conosco nemmeno.